interessante fare questa esperienza. Io mi sono sentito, non so, rilassato. Le spiegazioni della guardia forestale, dei padroni della casa sono state molto interessanti e mi è piaciuto molto. Questa gita è stata davvero bella perché mi è piaciuto proprio lo scopo, perché era molto interessante, mi sono piaciuti molto gli animali, lo scruscio dell'acqua. Era molto bello quel posto perché c'erano anche persone molto interessanti, perché ci hanno raccontato del mulino, com'era prima la casa, e quelle persone le recluto molto molto interessanti, perché sono davvero interessanti. Io ci andrò molte volte perché c'è un'amica che mi accompagna ad andarci e vedo il fiume e anche i cavalli.